Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Siamo al secondo appuntamento di questa settimana con l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Ben trovato al presidente Carlo Garofolini. Ciao Mirko, un saluto a tutti. Allora, con te di solito difficilmente trattiamo argomenti leggeri e allegri, ma insomma quando si parla di difendere i diritti dei consumatori purtroppo le notizie non sono mai positive e possiamo dire proprio negative sono quelle che arrivano dall'ultimo rapporto Eurispes. Certo, dei dati veramente negativi che, come hai detto te, ha comunicato l'Eurispes pochi giorni fa, che praticamente ha voluto lanciare un allarme su quello che è lo stato di salute economico degli italiani, in particolar modo delle famiglie, dove praticamente si evince in sintesi come lo stato di salute delle famiglie, dove il dato conferma quelle che sono un po' le nostre preoccupazioni e quelle che sono le denunce che l'Adico fino ad oggi ha fatto, e cioè quello che le famiglie non arrivano più a fine mese, non sopravvivono più neanche la terza settimana e con sempre maggiori difficoltà riescono a mettere via qualcosa. E quindi più di metà, giusto? Hanno poca fiducia. Guarda, vale la pena veramente leggere qualche dato per renderci conto del fenomeno. Allora, il 53,5% dei nostri connazionali afferma di non essere più in grado di sostenere adeguatamente il proprio nucleo familiare, quindi proprio, come hai detto tu, poco più di metà. E la famiglia d'origine resta un po' il rifugio di tante persone a fronte di quelle che sono le problematiche e gli imprevisti che ciascuna di queste si è trovata in questo ultimo periodo a dover sostenere, come perdere il lavoro, la cassa integrazione o proprio le difficoltà di arrivare a fine mese. Oggi c'è sempre più il fenomeno, quello di ritornare un po' a vivere, a mangiare tutti assieme, come soprattutto questa usanza era di 20-30 anni fa. Quindi certamente un dato che fa riflettere e che ci fa capire anche come le abitudini in questo senso si stanno modificando. E le abitudini che riguardano innanzitutto evidentemente i consumi, quindi anche la spesa ordinaria, oltre che le grandi spese più impegnative che magari vengono dilazionate oppure addirittura cancellate. Certo, ti dico anche questo, che i 2/3 dei lavoratori, il 61,3%, afferma che l'attuale occupazione non gli permette neanche più di sostenere un mutuo, e noi abbiamo dei dati molto significativi anche su quelli che sono i pignoramenti che le banche perpetuano proprio sugli immobili a favore di persone che non riescono più neanche a pagare la rata. Parliamo di un 61,3%. Poi è anche vero che per quanto riguarda l'occupazione è emerso come il 21% degli italiani cerca di ricorrere a una raccomandazione per trovare un'occupazione in un momento in cui c'è un grandissimo tasso di persone inattive, in particolar modo rivolta ai giovani, e come giovani ricordiamo che si cerca sempre come parametro le persone che hanno un'età inferiore ai 35 anni. E solo un italiano su 20 dice di riuscire a mettere via qualcosina. Quindi anche questo è un dato veramente molto molto importante, perché ci fa capire proprio la dimensione del fenomeno e soprattutto anche quello che è un po' il pessimismo che le famiglie in questo periodo stanno attraversando e che comunque tutti quanti regna. Eh sì, è un po' per tutti la situazione. Lì dove il lavoro c'è magari si fa fatica comunque perché i prezzi sono aumentati, dove il lavoro non c'è ancora di più perché l'introito o è minore perché c'è la cassa integrazione o la mobilità, oppure proprio l'introito non c'è e quindi bisogna erodere i propri risparmi o quelli della famiglia di origine. Appunto i nonni su questo sono ancora un ammortizzatore sociale, dobbiamo dire. La vita cambia, l'abbiamo detto già altre volte, cambiano le abitudini quotidiane, cambia il modo di fare la spesa, cambia il modo di mangiare anche di conseguenza. Sì, abbiamo proprio due fenomeni che vengono influenzati, uno che è legato ai consumi, l'altro che è legato un po' alla vita quotidiana. Per quanto riguarda i consumi, è chiaro che il 73% degli italiani intervistati hanno dichiarato proprio di aver constatato una diminuzione del potere d'acquisto, e di questo 73,4%, addirittura il 31% ha dichiarato molto e il 42% abbastanza. Solo il 4,4% ha dichiarato che sostanzialmente per lui non è cambiato. Per quanto riguarda le abitudini, invece, chiaramente è una conseguenza, perché aumentando le insicurezze, diminuendo il potere d'acquisto e aumentando anche quello che è lo stato di preoccupazione, pessimismo e insicurezza che le famiglie hanno, conseguentemente addirittura il 91,8% ha dichiarato di aver limitato per esempio le uscite fuori di casa, cioè le cene ai ristoranti, per farti capire, o altre abitudini che comunque comportavano un dispendio di soldi lontano dalle mura domestiche, e sappiamo che poi di conseguenza c'è tutto l'indotto, come il cinema, come locali serali, come tutte quelle abitudini che normalmente magari anche i giovani con più frequenza erano abituati a rivolgersi, e il fenomeno è anche quello di trovarsi sempre più spesso per le taverne o la casa di qualcuno, o prendersi la pizza e portarsela e mangiarsela a casa, ecco. Oppure farsela proprio in casa. Bravissimo, oppure farsela. Poi conseguentemente a questo cosa emerge? Un vertiginoso aumento del fenomeno dei negozi compro oro. E qua, anche qua è un fenomeno che è sempre visto con una certa preoccupazione, perché chiaramente le persone nella disperazione tentano in tutte le maniere di far quadrare i conti. È uno dei fenomeni ai quali le persone ricorrono. Abbiamo notato come in qualche puntata fa c'è un aumento del gioco d'azzardo, dall'altra c'è un riciclaggio di quello che sono un po' i vecchi gioielli che non si usa più, portandoli in questi negozi e cercando di riscuotere una somma che possa far fronte soprattutto a quelli che sono gli imprevisti. Insomma, un quadro piuttosto a tinte fosche, dobbiamo dire, piuttosto triste quello che esce dal rapporto Eurispes. Mi viene da dire che, insomma, lì dove magari cambiano le abitudini, non si va più fuori, ma si mangia in casa piuttosto che andare a mangiare fuori, magari si recupera qualcosa dal punto di vista relazionale e delle amicizie, anche se questo magari viene fatto con un clima così un po' più pessimistico. Ma vogliamo chiudere magari con una nota di ottimismo, visto che siamo anche a carnevale, insomma, cerchiamo anche di tirarci su, non per non pensare ai problemi, ma per affrontarli magari in modo diverso. Grazie ancora all'Adico, la settimana prossima altri due argomenti, altri casi interessanti che avete seguito. Grazie a Carlo Garofolini, un saluto e buon proseguimento. Grazie a te Mirko, un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci. In collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.